A te, Signore, la giustizia, e a noi la vergogna sul volto, come avviene oggi per gli uomini di Giuda, per gli abitanti di Gerusalemme e per tutto Israele, per quelli vicini e per quelli lontani, in tutti i paesi dove li hai scacciati per la infedeltà con la quale hanno agito verso di te. Signore, a noi la vergogna sul volto, ai nostri re, ai nostri capi e ai nostri padri che hanno peccato contro di te. Al Signore nostro Dio la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati a Lui e non abbiamo ascoltato la voce del Signore nostro Dio per camminare secondo i Suoi insegnamenti che ci aveva dato per mezzo dei Suoi servi, i profeti. Tutto Israele ha trasgredito la Tua legge e si è allontanato in modo da non sentire la Tua voce. Allora si è riversata su di noi la maledizione e l'imprecazione che è scritta nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di Lui. Egli ha mandato a compimento la parola che aveva pronunziato contro di noi e contro i nostri governanti, che avrebbe fatto venire su di noi una grave sciagura che non è mai avvenuta sotto tutto il cielo, come è stata realizzata per Gerusalemme. Come è scritto nella legge di Mosè, tutta questa sciagura è venuta su di noi. Noi, però, non abbiamo cercato di propiziare la faccia del Signore, nostro Dio, ritirandoci dalle nostre colpe e istruendoci nella Tua verità. Il Signore ha preparato la sciagura e l'ha fatta venire sopra di noi, perché è giusto il Signore Dio nostro in tutte le sue opere che ha fatto, mentre noi non abbiamo ascoltato la sua voce. E ora, Signore Dio nostro, che hai fatto uscire il tuo popolo dalla terra d'Egitto con mano forte e ti sei fatto un nome qual è oggi, noi abbiamo peccato, abbiamo commesso l'iniquità. Signore, per tutte le tue opere di giustizia, allontana da noi la tua ira e il tuo furore dalla tua città, Gerusalemme, tuo monte santo, perché per i nostri peccati e per le colpe dei nostri padri, Gerusalemme e il tuo popolo sono diventati un obbrobrio per tutti i nostri vicini. Ora ascolta, Dio nostro, la preghiera del tuo servo e la sua supplica. Fa splendere il tuo volto sopra il tuo santuario devastato, per amore di te stesso, Signore. Piega, mio Dio, il tuo orecchio e ascolta. Apri i tuoi occhi e guarda le nostre distruzioni e la città sulla quale è invocato il tuo nome. Perché non per le nostre opere giuste noi umiliamo le nostre suppliche davanti al tuo volto, ma per le tue molte misericordie. Signore, ascolta, Signore, perdona, Signore, volgiti e intervieni. Non essere più adirato, per amore di te stesso, Signore mio, perché il tuo nome è invocato sopra la tua città e sopra il tuo popolo. Stavo ancora parlando, pregando e confessando il mio peccato e il peccato del mio popolo, Israele, e umiliavo la mia supplica davanti al Signore mio Dio, in favore del monte santo del mio Dio. Ancora io stavo parlando e pregando, quando Gabriele, che avevo visto nella visione precedente, volando rapidamente mi si fece accanto al tempo dell'oblazione della sera. Egli venne per parlarmi. Mi disse: Daniele, ora io sono venuto per farti conoscere tutto. All'inizio della tua supplica è uscita una parola, e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei prediletto. Dunque, poni mente alla parola e intendi la visione. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e la tua città santa, per porre fine al delitto, per sigillare il peccato ed espiare la colpa, per far venire la giustizia eterna, per sigillare visione e profezia e per ungere il santo dei santi. Sappi dunque e comprendi, da quando è uscita la parola per far ritorno e ricostruire Gerusalemme, fino ad un consacrato, a un principe, 7 settimane. E per 62 settimane saranno nuovamente riedificati piazza e fossato, ma in mezzo a tempi calamitosi. E dopo 62 settimane sarà ucciso un consacrato senza che in lui sia colpa. La città e il santuario saranno distrutti da un principe che verrà. La sua fine sarà nell'inondazione, ma sino alla fine guerra che porta distruzioni. Stringerà un'alleanza con molti durante una settimana, e durante mezza settimana farà cessare sacrificio e oblazione. Sull'ala del tempio vi sarà un'abominazione desolante, finché rovina e ineluttabile sorte si riverserà sul devastatore. L'anno terzo di Ciro, re della Persia, una parola fu rivelata a Daniele, che era stato soprannominato Baltazar. Parola veritiera e grandiosa lotta. Egli cercò di comprendere la parola e l'intelligenza gli fu concessa in una visione. In quei giorni io, Daniele, feci lutto per 3 settimane intere. Non mangiai nessun cibo delizioso, carne e vino non entrarono nella mia bocca, né feci uso di unzioni finché non furono passate 3 settimane. Il 24esimo giorno del primo mese io ero sulla riva del grande fiume, il Tigri. Alzai gli occhi e guardai. Ecco, un uomo, vestito di indumenti di lino. I suoi fianchi erano cinti di oro di Ufaz. Il suo corpo era come topazio, il suo volto splendente come la folgore, i suoi occhi come lampade accese, le sue braccia e le sue gambe come uno scintillio di bronzo lucente, e la voce delle sue parole come la voce di una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me non videro la visione, ma un grande spavento si impossessò di loro e fuggirono a nascondersi. Io, Daniele, rimasi solo. Davanti a quella grandiosa visione non restò in me nessuna forza. Il mio aspetto cambiò come fossi distrutto. Non ebbi più forza. Udivo la voce delle sue parole, e udendo la voce delle sue parole, come stordito caddi bocconi, con la faccia per terra. Ma ecco, una mano mi toccò e mi fece alzare tremando sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo prediletto, comprendi le parole che ti dico. Alzati in piedi, perché ora sono stato inviato a te. E mentre parlava con me, io mi alzai in piedi, tremando. Soggiunse: non temere, Daniele, perché dal primo giorno che tu ti sei messo a comprendere e ad umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state ascoltate. Io sono venuto in risposta alle tue parole, ma il principe del regno di Persia mi ha ostacolato per 21 giorni. Però ecco che Michele, uno dei primi principi, è venuto ad aiutarmi. Io l'ho lasciato là, di fronte al principe del regno di Persia, e sono venuto per farti capire ciò che accadrà al tuo popolo nei giorni a venire, perché è ancora una visione relativa ai giorni. Mentre mi diceva queste cose, io mi buttai con la faccia per terra, incapace di parlare. Ed ecco, qualcosa come una mano di figlio d'uomo toccò le mie labbra. Allora aprii la bocca, parlai e dissi a colui che mi stava davanti: mio signore, davanti alla visione le doglie mi hanno assalito, ogni forza mi ha lasciato. E come potrebbe un servo del mio signore come me parlare col mio signore, se fin da ora mi ha abbandonato la forza, sono rimasto senza respiro? Allora l'essere misterioso, simile ad un uomo, mi toccò di nuovo e mi disse: non temere, uomo prediletto, pace a te, sii forte e coraggioso. Mentre costui parlava, io mi sentii tornare le forze e dissi: parli pure il mio signore, perché mi hai dato coraggio. Mi domandò: sai perché sono venuto da te? Ora io riparto per combattere contro il principe di Persia. Io parto, ma ecco, viene il principe di Grecia. Tuttavia, io ti indicherò ciò che è scritto nel libro della verità. Nessuno mi presta aiuto contro costoro, se non Michele, il vostro principe, che resiste per dar forza e aiuto a me. Ora ti annunzio la verità. Ancora 3 re sorgeranno per la Persia. Un quarto poi accumulerà una ricchezza più grande di tutti. Quando, grazie alla sua ricchezza, sarà diventato potente, insorgerà contro tutti i regni di Grecia. Sorgerà quindi un re potente, dominerà sopra un grande impero e farà quello che vorrà. Ma quando costui sarà diventato forte, il suo regno sarà frantumato e sarà diviso ai 4 venti del cielo, ma non per la sua posterità, né sarà una potenza come la potenza che egli ha avuto. Sì, il suo regno sarà estirpato e dato ad altri, anziché alla sua discendenza. Il re del sud diventerà forte, uno dei suoi principi sarà più forte di lui e il suo dominio sarà più grande del dominio di lui. Dopo qualche tempo essi si alleeranno e una figlia del re del sud verrà dal re del nord per ratificare gli accordi. Ma ella non conserverà la forza del suo braccio e la sua discendenza non sopravvivrà. Sarà tradita, lei, colui che l'accompagna, il suo bambino e chi la sosteneva. Ai suoi tempi un rampollo sorgerà dalle sue radici al posto suo. Costui marcerà contro l'esercito e penetrerà dentro la fortezza del re del nord. Agirà contro costoro e vincerà. Porterà via come preda in Egitto anche i loro dei con i loro idoli, i loro vasi preziosi d'oro e d'argento. Egli per molti anni starà lontano dal re del nord. Andrà nel regno del re del sud e tornerà nel suo territorio. Suo figlio si armerà e raccoglierà una moltitudine di forze valorose. Verrà contro di lui, strariperà, sommergerà, poi ritornerà e si spingerà fin dentro la fortezza. Allora il re del sud, infuriato, uscirà a combattere contro il re del nord. Costui metterà in piedi una grande armata, ma una grande moltitudine sarà data in suo potere. La moltitudine sarà spazzata via e il suo cuore si inorgoglirà. Abbatterà miriadi, ma non acquisterà forza. Il re del nord ritornerà, metterà in piedi un'armata più grande della precedente e dopo qualche tempo verrà decisamente con una grande armata e con molto equipaggiamento. In quei tempi molti insorgeranno contro il re del sud e alcuni violenti del tuo popolo si leveranno perché si porti a compimento la visione. Ma cadranno. Il re del nord verrà e costruirà un terrapieno per occupare la città fortificata. Le forze del sud non resisteranno e nemmeno il manipolo dei suoi scelti avrà la forza di resistere. Colui che gli viene contro farà quello che vorrà e nessuno gli potrà resistere. Egli si fermerà nel paese dello splendore e la distruzione sarà in suo potere. Poi deciderà di venire con la forza di tutto il suo regno e farà un'alleanza con lui, dandogli in moglie una delle sue figlie per distruggerlo. Ma la cosa non riuscirà, non avrà successo. Si volgerà quindi verso le isole e ne occuperà molte. Ma un comandante porrà fine alla sua arroganza senza che lui possa ritorcere l'oltraggio contro costui. Allora si rivolgerà verso le città fortificate del suo paese, ma sarà travolto, cadrà e non si ritroverà più. Un altro sorgerà al suo posto. Costui farà passare un esattore nello splendore del suo regno. Dopo breve tempo, però, sarà stroncato, ma non pubblicamente, né in guerra. Al suo posto sorgerà un miserabile, a cui non verrà concessa la dignità reale, ma si insinuerà pacificamente e si impadronirà del regno con intrighi. Le forze dell'inondazione saranno sommerse davanti a lui e saranno infrante, come pure un principe dell'alleanza. Quando si sarà fatta lega con lui, egli ordirà intrighi e diventerà forte in un piccolo popolo. Indisturbato verrà nelle regioni più fertili della provincia e farà quello che non avevano fatto i suoi avi né gli avi dei suoi avi. Distribuirà tra di loro spoglie, bottino e ricchezze. Concepirà piani contro la città forte, ma per un tempo. Egli rivolgerà la sua forza e il suo cuore contro il re del sud con un grande esercito. Il re del sud si preparerà alla guerra con un esercito grande e molto forte, ma non resisterà, perché si formeranno complotti contro di lui. Proprio coloro che condividono la sua stessa mensa lo rovineranno. Il suo esercito sarà sopraffatto e molti cadranno feriti. I due re, avendo il loro cuore rivolto al male, sedendo alla stessa mensa, si inganneranno a vicenda, ma a nulla gioverà, perché la fine non è ancora fissata. Egli prenderà la via del ritorno verso il suo paese con grande ricchezza, ma il suo cuore sarà contro l'alleanza santa. Compiuto quello che vorrà, ritornerà al suo paese. Al tempo fissato ritornerà nel sud, ma questa volta non sarà come la prima. Le navi dei Chittim verranno contro di lui ed egli rimarrà senza coraggio. Al suo ritorno infierirà contro l'alleanza santa. Egli agirà e nuovamente si intenderà con coloro che abbandonano l'alleanza santa. Le sue forze si leveranno a profanare il santuario fortezza, aboliranno il sacrificio perpetuo e innalzeranno l'abominio della desolazione. Con lusinghe farà apostatare i prevaricatori dell'alleanza, ma il popolo di coloro che conoscono il loro Dio rimarrà saldo e agirà. I maestri del popolo cercheranno di illuminare le folle, ma accadranno per la spada, il fuoco, la prigionia e l'esilio per lunghi giorni. Mentre essi cadranno, pochi verranno in loro aiuto. Molti si associeranno ad essi senza sincerità. Tra i dotti ci sarà chi soccomberà, perché tra di loro alcuni siano provati, eletti, purificati, sino al tempo della fine, perché ancora il tempo non è fissato. Il re agirà secondo il suo piacere, si esalterà e si eleverà al di sopra di ogni dio e contro il dio degli dei dirà cose inaudite. Egli avrà successo finché la collera sia al colmo, perché quanto è decretato si compirà. Non avrà riguardo per gli dei dei suoi avi, né per la favorita delle donne, non avrà riguardo per nessuna divinità, perché si innalzerà al di sopra di tutto. Al loro posto adorerà il Dio delle fortezze, adorerà con oro, argento, pietre preziose e gioielli un Dio che i suoi padri non hanno conosciuto. Prenderà come difensori delle fortezze genti di un Dio straniero. Ricolmerà di onore coloro che egli riconoscerà, darà loro il potere su molti e in ricompensa darà loro la terra in possesso. Al tempo della fine il re del sud si affronterà con lui. Il re del nord precipiterà su di lui con carri, cavalieri e con molte navi. Entrerà nei territori di costui, li inonderà e li sommergerà. Verrà nel paese dello splendore e molti cadranno. Ma scamperanno dalle sue mani i seguenti: Edom, Moab e il resto dei figli di Ammon. Metterà la sua mano sui territori e il paese d'Egitto non sfuggirà. Si impadronirà dei tesori d'oro e d'argento e di tutte le cose preziose d'Egitto. I libi e gli etiopi saranno ai suoi piedi. Ma rumori dall'Oriente e dal Settentrione lo turberanno e accorrerà con grande furore per distruggere e annientare molti. Pianterà le tende del suo quartiere tra il mare e il Monte Santo dello Splendore, ma giungerà alla sua fine e nessuno lo aiuterà. In quel tempo si leverà Michele, il grande principe che sta a guardia dei figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia che mai c'è stata da quando ci fu un popolo fino a quel momento. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, ognuno che si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nel paese della polvere si desteranno, questi alla vita eterna, ma quelli all'udibrio, all'infamia eterna. I saggi splenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotto molti alla giustizia saranno come le stelle in eterno, per sempre. E tu, Daniele, tieni segrete le parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti scruteranno e la conoscenza crescerà. Io, Daniele, guardavo. Ecco, altri due stavano, uno di qua, sulla sponda del fiume, e uno di là, sull'altra sponda. Uno domandò all'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume: a quando la fine delle cose straordinarie? Allora io udii l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, alzando la destra e la sinistra al cielo, giurare per il vivente in eterno, per un tempo, per tempi e per mezzo tempo, quando si sarà finito di distruggere la forza del popolo santo, tutte queste cose saranno compiute. Io intesi, ma non capii.